Sarebbe bello se un giorno ci alzassimo e ci mettessimo di fronte allo specchio e schivassimo il nostro riflesso per poi essere pronti a colpirlo al cuore, a sputare tutte quelle parole, a volare, bruciare, cadere, piangere insieme e poi finalmente andare a bere in qualche locale. Sarebbe un ottimo risveglio, sarebbe un ottimo risveglio, sarebbe un ottimo risveglio, sarebbe un ottimo risveglio. Per quando sarò grande mi voglio inventare un lavoro tipo distribuire palloncini sul lungomare. Compreremo qualcosa per fare le bolle di sapone e le vedremo volare lontano, lontano, lontano, come io e te, chissà se riusciremo mai. Come io e te, chissà se riusciremo mai. Come io e te, chissà se riusciremo mai. Come io e te, chissà se riusciremo mai. E quanto mi piacerebbe scrivere sui muri di questa città le frasi migliori delle mie canzoni preferite per farle leggere e fartele leggere, stando ovviamente con la costante ansia di vederle sbiadire prima del tempo. Il tempo, sì, come sempre, ho paura del tempo. Mietto cerca di sopravvivere al meglio, cerca di sopravvivere al meglio, cerca di sopravvivere al meglio, cerca di sopravvivere al meglio. Che poi non ho mai capito se con quel meglio intendessi che dovessi sopravvivere al meglio delle mie capacità, o più semplicemente che dovessi essere in grado di resistere a tutte le cose migliori che mi stavano accadendo per riuscire ad evitare di sprofondare come adesso. Non credo in ogni caso di esserci riuscito, non credo in ogni caso di esserci riuscito, non credo in ogni caso di esserci riuscito, non credo in ogni caso di esserci riuscito.